ad alta voce. Maria Pajato legge Невский проспект, la prospettiva, di Николай Васильевич Гоголь. Traduzione di Tommaso Landolfi. «Ehi!» esclamò su quest'ora il tenente Piragoff, dando una stratta a un giovane in frac e mantello che gli camminava al fianco. «Hai visto?» «Ho visto. Incantevole. Una vera Bianca del Perugino. Ma tu di quale parli?» «Di lei. Di quella coi capelli scuri. E che occhi, Dio, che occhi! E tutto il portamento, la linea, il taglio del volto, una meraviglia!» «Ah, io intendevo la biondina che è passata dietro di lei da quella parte. Ma tu perché non segui la brunetta, visto che ti piace tanto?» «Oh, ma com'è possibile?» esclamò arrossendo il giovane in frac. «Quasi fosse una di quelle che battono di sera la prospettiva. Quella deve essere una gran dama», proseguì egli sospirando. «Soltanto il suo mantello costerà 80 rubli». «Ingenuone!» esclamò Piragoff, spingendolo a forza verso dove si vedeva ondeggiare lo sgargiante mantello della dama. «Avanti, sciocco, la perderai se no!» «E io andrò dietro alla biondina». I due amici si separarono. «Vi conosciamo tutte come siete», pensava fra sé, con un sorriso di sufficienza e di fiducia in se stesso Piragoff, il quale era sicuro che nessuna beltà potesse resistergli. Il giovane in frac e mantello, tutto timoroso e tremante, se ne andò dalla parte dove ondeggiava in lontananza il variopinto mantello, ora avvivandosi di chiari riflessi, a misura che s'accostava alla luce d'un lampione, ora avvolgendosi a un tratto di tenebre quando se ne allontanava. Il cuore del giovane batteva e senza volere egli affrettava il passo, non osava neppure pensare d'aver come che sia diritto all'attenzione della bella in volantesi in lontananza, né tantomeno a mettere un pensiero nero come quello che gli aveva suggerito il tenente Piragoff. Ma voleva soltanto vedere la casa, vedere dove avesse ricetto quell'incantevole creatura che pareva volata giù dal cielo direttamente sulla prospettiva e che certo si sarebbe di nuovo involata chissà dove. E andava tanto in fretta che ogni momento urtava sul marciapiede signori rispettabili dagli scopettoni canuti. Questo giovane apparteneva a una classe di persone che costituisce da noi un fenomeno dei più strani e che si trova coi cittadini di Pietroburgo nel medesimo rapporto che potrebbe correre fra una figura sognata e il mondo reale. Questa eccezionale categoria di persone è assai rara in una città dove tutti sono impiegati o mercanti o artigiani tedeschi. Il giovane, insomma, era un artista. Un vero fenomeno, non vi pare? Un artista a Pietroburgo, un artista nel paese delle nevi, un artista nella terra dei finni, dove tutto è umido, piatto, monotono, squallido, grigio, brumoso. Questi artisti non rassomigliano punto agli artisti italiani, alteri, ardenti come l'Italia e il suo cielo. Al contrario, essi sono per lo più buona gente, mite, timida, indolente, che ama il silenzio e la sua arte, prende il tè con due amici in una piccola stanza, ragiona discretamente dell'argomento preferito e non si dà pensiero del resto. Chiameranno una vecchia mendicante e la costringeranno a stare in posa per 6 ore, onde ritrarre sulla tela la sua pietosa e intontita faccia. Disegneranno la prospettiva della loro stanza, in cui comparirà ogni specie di artistica cianfrusaglia, mani e piedi di gesso diventati color caffè dal tempo e dalla polvere, cavalletti da pittore fuori uso, una tavolozza capovolta, un amico che suona la chitarra, mura imbrattate di colore e la finestra spalancata attraverso cui si scorgono la pallida neva e i poveri pescatori in camicia rossa. Nelle loro composizioni, su quasi ogni oggetto è steso un color grigiastro opaco, incancellabile suggello del settentrione. E tuttavia, essi con vero rapimento si affannano sul loro lavoro. Spesso mostrano un autentico talento. E se soltanto spirasse su loro la fresca aria d'Italia, esso certo si svilupperebbe libero, largo e smagliante, come una pianta portata finalmente da una chiusa stanza all'aria pura. In generale sono assai timorosi. Una stella o una spallina li gettano in una tale confusione che senza volere abbassano il prezzo dei loro prodotti. Amano talvolta farli eleganti, ma questa eleganza appare sempre in loro troppo eccentrica e somiglia alquanto a un rabberciamento. Addosso a loro vedrete talvolta un inappuntabile frac e insieme un mantello bisunto, un panciotto di velluto di gran prezzo e in una un soprabito tutto imbrattato di colore. Giusto appunto come in un loro paesaggio non finito vedrete talvolta una ninfa a testa all'ingiù, dipinta per mancanza d'altro posto, sul fondo impiastricciato dell'opera precedente, a suo tempo dipinta anch'essa in stato di rapimento. Costoro non vi guardano mai diritto negli occhi. Se lo fanno, il loro sguardo è in qualche modo opaco, indeterminato. Esso non vi penetra come quello d'avvoltoio dell'osservatore o quello di falco dell'ufficiale di cavalleria. Ciò deriva dal fatto che si vedono contemporaneamente e la vostra faccia e quella di non so che Eracle di gesso che tengono in camera o che si presenta alla loro mente un quadro che progettano di fare. E però rispondono spesso alle vostre domande in maniera slegata, talvolta fuori di proposito, e la confusione degli argomenti nella loro testa aumenta ancora la loro timidezza. Il giovane pittore Piškarjov era timido, schivo, ma recava nella sua anima una scintilla pronta a convertirsi in fiamma in circostanze favorevoli. Con un segreto tremore s'affrettava egli dietro all'obiettivo che l'aveva così profondamente colpito e si meravigliava quasi egli stesso del suo ardimento. La creatura sconosciuta, cui tanto tenacemente s'attaccavano i suoi sguardi, i suoi pensieri e i suoi sentimenti, a un tratto volse il capo e lo guardò. Cielo, che divini lineamenti! L'incantevole fronte d'abbagliante candore era ombreggiata da magnifici capelli d'agata. S'avvolgevano quei meravigliosi boccoli e una parte, ricadendo di sotto al cappello, sfiorava il collo, tocco da un sottile e fresco incarnato per via del freddo. Le labbra erano suggellate da un intero sciame di dorate fantasie. Tutto ciò che sopravvive dei ricordi d'infanzia, tutti i sentimenti che prestano la fantasia e una quieta ispirazione al lume d'una nitescente lucerna, tutto ciò, raccolto e fuso, pareva aleggiare su quelle armoniose labbra. Ella guardò Piškarjov e a questo sguardo tremò il cuore di lui. Ella lo guardò con severità. Un senso di malumore si diffuse sul suo volto alla constatazione d'un tale sfacciato inseguimento. Ma su quel leggiadro volto l'ira stessa era incantevole. Colto da vergogna e da timidezza, il giovane si fermò abbassando gli occhi Ma come perdere una tale divinità e non conoscere neppure il sacrario che essa degnava della sua presenza? Con simili pensieri vennero in testa al giovane sognatore ed egli decise di continuare l'inseguimento. Ma per non essere notato s'allontanò alquanto, prese a guardare con aria non curante di qua e di là, a osservare le vetrine, e nel frattempo non perdeva neanche un movimento della sconosciuta. I passanti diradavano, la strada si faceva più tranquilla, la bella si guardò attorno e a lui parve che un leggero sorriso brillasse sulle sue labbra. Tremò egli tutto e non voleva credere ai suoi occhi. No, era stata l'ingannevole luce di un lampione a riflettere sul suo volto la parvenza d'un sorriso. No, la sua fantasia si faceva beffe di lui. Ma il fiato gli restò mozzo nel petto. Tutto in lui si mutò in vago tremore, tutti i suoi sensi ardevano e tutto davanti a lui era avvolto da una nebbia. Il marciapiede scorreva sotto di lui, le carrozze coi galoppanti cavalli parevano immote, il ponte dilatava il suo arco e si spezzava, le case stavano col tetto all'ingiù, la garitta gli ruzzolava incontro e l'alabarda del vigile, insieme con le lettere d'oro d'un insegna e con le forbici ivi tracciate, gli pareva brillasse giusto sulle sue ciglia. E tutto ciò aveva prodotto un solo sguardo, un volgersi appena della leggiadra testina. Non udendo, non vedendo, non ponendo attenzione a nulla, egli seguiva le leggere orme degli incantevoli piedini, cercando egli stesso di moderare la velocità del proprio passo che volava sul ritmo del suo cuore. Talvolta lo prendeva il sospetto che l'espressione di quel volto non fosse tanto benevola quanto sembrava. E allora si fermava un momento, ma tosto il battito del cuore, l'indomabile forza e ansia di tutti i sensi lo spingevano innanzi. Non vide neppure come a un tratto gli si levasse davanti una casa di 4 piani, 4 intere file di finestre illuminate. Lo guardavano tutte insieme e la ringhiera dell'ingresso gli oppose il suo ferreo urto. Vide la sconosciuta volar su per le scale, volgersi, mettersi un dito sulle labbra e far segno di seguirla. Le ginocchia del giovane tremarono, i sensi, i pensieri arsero, un fulmine di gioia con intollerabile acutezza s'affondò nel suo cuore. No, non era una fantasia. Dio, quanta felicità in un solo istante! Che meravigliosa vita in 2 attimi appena! Ma non era tutto un sogno? Era proprio vero che colei, per un solo sguardo della quale egli avrebbe data la vita, colei al cui ricetto accostarsi egli già stimava inesprimibile beatitudine, era proprio vero che colei era adesso tanto cortese e benevola con lui? Egli volava su per la scala. Non nutriva alcun pensiero terrestre, non era acceso dalla fiamma d'una terrestre passione, no. Egli era in quel momento puro e innocente, come un vergine garzone che ancora senta in sé indeterminata una spirituale sete di amore. E ciò che avrebbe in un uomo corrotto risvegliato turpi pensieri, ciò appunto faceva più puri i suoi. La fiducia che un essere fragile e incantevole riponeva in lui, questa fiducia lo asserviva a un voto di cavalleresco rigore, il voto di eseguire come uno schiavo ogni comandamento di lei. Desiderava soltanto che questi comandamenti fossero quant'era possibile di faticosa e difficile esecuzione, onde con maggiore stento impiego di forza volare a debellarne le difficoltà. Era sicuro che qualche segreto, e in una qualche importante fatto, aveva persuasa la sconosciuta ad affidarglisi e che gli si richiedessero grandi prove, e già sentiva in sé forza e decisione bastanti per ogni frangente. La scala s'avvolgeva, e insieme con essa s'avvolgevano le rapide fantasie del giovane. «Siate più accorto!» risuonò come un'arpa, una voce che riempì tutte le sue vene di nuovo tremore. Nelle oscure altezze del quarto piano, la sconosciuta picchiò a una porta, che s'aprì ed essi entrarono insieme. Una donna, abbastanza piacente all'aspetto, venne loro incontro con una candela in mano, ma guardò Piškarev con aria tanto sconcertante e sfacciata che egli abbassò involontariamente gli occhi. Entrarono in una stanza. Tre figure femminili in diversi punti si presentarono agli occhi del giovane. Una disponeva delle carte da gioco, un'altra sedeva a un piano e suonava con due dita, non so che pietosa versione d'una vecchia polonese. Una terza sedeva davanti a uno specchio ravviandosi con un pettine i lunghi capelli e non si peritò affatto di continuare la propria occupazione nonostante l'arrivo d'una persona sconosciuta. Una sorta di sgradevole disordine, quale si può trovare soltanto nella neghittosa camera d'uno scapolo, regnava dappertutto. I mobili, abbastanza buoni, erano coperti di polvere. I ragni avevano teso la loro tela sulle modanature. Attraverso l'uscio semiaperto di un'altra camera riluceva uno stivale speronato e rosseggiava la pistagna d'un uniforme, una stentorea voce maschile e un riso femminile risuonavano, senza alcuna costrizione. Dio, dov'era capitato? Dapprima non voleva credere ai suoi occhi e prese a osservare meglio gli oggetti che ingombravano la stanza. Ma le pareti nude e le finestre senza tendine non rivelavano la presenza d'alcuna premurosa padrona. I visi consunti di quelle compassionevoli creature, una delle quali gli sedeva quasi sotto il naso e lo osservava con la calma con cui s'osserva una macchia sul vestito d'un altro. Tutto ciò lo convinse d'essere venuto al tristo asilo in cui ha eletto suo domicilio la turpe corruzione generata dalla civiltà d'orpello e dalla spaventosa Babilonia della capitale. L'asilo in cui l'uomo sacrilegamente conculca e schernisce tutto quanto va di puro e di sacro, tutto quanto abbellisce la vita, in cui la donna, questa bellezza del mondo, corona della creazione, s'è mutata in un essere strano ed equivoco, in cui essa, insieme con la purezza dell'anima, ha perduto ogni sua femminilità e si è abominevolmente appropriati i modi e le impudenze del maschio. E cessa ormai d'essere quella creatura così fragile, così leggiadra, è così diversa da noi. Piškarev misurò la ragazza dalla testa ai piedi con occhi stupiti, quasi volendo ancora convincersi che colei era quella medesima che tanto l'aveva incantato ed attratto sulla prospettiva. Ma essa gli stava davanti ugualmente bella. I suoi capelli erano ugualmente lucenti. I suoi occhi apparivano ancora angelici. Essa era fresca. Aveva 17 anni appena. Si vedeva che l'orribile corruzione l'aveva raggiunta da poco. Egli ancora non osava toccare le sue guance. Esse erano fresche e appena soffuse di rossore. Ella era incantevole. Le stava davanti immobile ed era già quasi disposto a obliarsi ingenuamente come prima, ma la bella si stancò di un tanto lungo silenzio e sorrise significativamente, guardandolo dritto negli occhi. Ma questo sorriso era pieno d'una certa triste impudenza. Esso era così strano e così poco conveniva al volto di lei, quanto poco un'espressione di religiosa devozione al ceffo d'un concussionario o un libro di conti a un poeta. Egli fremé. Ella schiuse le sue belle labbra e prese a dire qualcosa, ma tutto ciò era così sciocco, così volgare. Quasi insieme all'innocenza anche l'intelligenza abbandoni l'uomo. Egli non volle più dir nulla. Fu oltremodo goffo e sciocco come un ragazzo. Invece di profittare d'una tale benevolenza, invece di rallegrarsi d'una tale occasione, come si sarebbe rallegrato chiunque altro al posto suo, si slanciò sulla scala, si buttò a correre a tutte gambe come un capriolo e uscì sulla strada. Con la testa bassa e le braccia abbandonate, sedeva in camera sua, come un povero che, trovata una perla di incalcolabile valore, l'avesse poi subito lasciata ricadere in mare. Una tale bellezza, quelle divine fattezze. E dove? In quel luogo. Ecco tutto ciò che gli riusciva di dire. E in vero, non mai la pietà ci stringe più forte come alla vista della bellezza tocca dal pestifero fiato della corruzione. Sa lei con questa la difformità, ma la bellezza, la tenera bellezza, essa nella nostra mente va solo unita all'innocenza e alla purezza.